come carta, la mette nei piatti, non vuoi dire la provenienza, capito? È un quarto di forma. Non c'è problema, tu prima è un quarto di forma, intanto sono fermato da un chilo, saranno 250 grammi, se si sbaglia uscirà 300, non è quello che ti ci manca la vita, no? Quelli che comandano a capo settore. Certo, poi l'acqua. trovare. Bisogna andare a trovare. Okay. di come ti pare. Sì, lo so già. A piacere, dai. A chi piace, ecco, a me sinceramente, guarda, mi piace più una radio bella amplificata, so perché questo eco ripetitivo che si prende al cervello, perlomeno, io parlo di me, poi se ti piace non ho niente da dire già. No, a me il ripetitivo non piace, a me piace con le fotocamere e basta tutto lì. C'è una cena stasera, un casino. Vabbè, 5 minuti e poi ti faccio sapere. Non ho capito, Gianni, cosa stavi dicendo? Allora andavo a fare una commissione a Mario, 5 minuti. E li avvento subito, là. Yeah. ci sentiamo più tardi. Sì, quello meglio fosse a casa tua, con comodo, non c'è problema, ci risentiamo alle prossime. Ciao ciao. Sì, ya. Ciao ciao, ciao Mario, ciao ciao, ci sei ancora. E ciao Luca. Luca, gli hanno suonato là sotto e si è perso. No, bravo, ciao Mario, sono mai giù, eh. E ciao, intanto dovrebbe venire pure, pure Gianni qui. Siccome mi ha fatto una proposta dicendo che quello lì è molto buono, allora gli ho detto, ti di avere un pezzo, però la polizia è lì, allora niente, me lo sta comprando qui, però chiede quel tipo lì. Perché dove vado io purtroppo, quando è venuto gli dà la carta la butta via e una volta che l'ha piatto non sai qual è la provenienza. KK. Grazie. togliere lì e si mette l'altro. Ah, gli spieghi che sta sotto, papà. Sembra lui. Com'è? Non c'è nessuno. Ma lui? Ma tutti in fretta, giunge. Avanti. Sei già nell'hotel room? Già nell'hotel room non ho sentito. C'è Roberto Quadrato e Luca. Ah, va bene, ok, grazie, ciao. Prego. La moglie di Gianni. No, non c'è. Gappa, gappa. Adesso ero a Fattotore, il mare era bello, amico. È freddo, vabbè, è un bel freddo, però è bello, bellissimo. Ah, se stai con giubbotto va bene, non c'è il freddo. Ma il freddo se n'è andato, qua freddo, freddo, freddo, però. Cavaga, lascia che sia una bella giornata. Speriamo che sia ora. Verso le 4 ero giù a Cosa, a Riputi, lì era bello, si stava bene. Era una bella giornata, un bel caldo. Domani mattina speriamo, dovrebbe essere più bello di oggi. Per caso stavamo giocando oggi stasera? Chi? C'era Lantieri, era poco niente. Vabbè, forse i bambini. La Lantieri gioca domani. Vabbè, bambini. Era perso 1-0, dice, non so chi può essere il telegiornale. Che cosa? Che l'Inter ha perso 1-0. Allora. Parma, Cata, sta girando forte il Parma, mi ha reso una retrocessione fino a poche giornate fa, adesso sta iniziando a batterle uno dietro l'altro. Va bene. No, ma martedì e mercoledì ci sono le coppe del campionato, poi non vogliamo che facciamo avanti le italiane. Guarda! Dappa, dappa, andale, via. È un casino, roba. Un casino, adesso guarda, non si va a vedere. Allora. No. Sabato 25 Parma Inter, Milan Juventus. Va Milan Fiorentina, Juventus Roma alle 20:30. Però non dice che ha perso. C'è stato un break, mi ha avanti il break. Allora. Ma l'hai visto? Carino. Bambo! Chi sei? Guarda, chi sei? Natalino? Uffa! Non ti compreso. Chi sei? Non ho capito il nome. No, non riesco a capire. Chi sei? Luca, ma ascolti tu. Ma ah, se tu non ci capisci niente come sta uscendo, qui sta uscendo, non ci capisce niente. Ah, Torino, cazzo, buco di incendivari. Ma ti occupo, sì, non ci capisce niente. Torino, la musica, sì. Cosa, Tony? Non è tutto. Prova. Andi, tre cazzo, i tuoi posto, ripetevi la mano. Andava. Ragazzi, hai capito. Ciao Torino, ben sentito. Ah, Roberto, non so più quanto anni. Hai visto? Altro break, mi Luca. Spagnolo, aspetta. Adelante, attento mio hermano, come si scucci in nord di Sardegna, va chiamando bricco bricco. Sono spagnolo, vero? Vediamo un po'. C'ho avuto QRM, tu lì, non lo sento, l'ha visto? Ho capito per il QRM. Se non ti chiari sotto, se ti metti in chiaro, non la zona di quello io, Yeah, cop, cop, cop, John Dollar. Sì. Scappa, andare. Già va bene, già va. E che cosa, adesso mi sono fatto il ruolo più basso perché ho già ho preso la discesa. Però perché vedi che arrivi il Torino a 4 ore? C'è che c'è, va avanti. Se ti propagassero le robe. Allora, vedi Luca, se per 12 sì. Allora. Ma no, sul 12, la gente se sul 12 pure, figurati. Ce la facciamo, ma giusto due giorni, ancora mancare un paio d'ore. sapete tutti cosa ti stavo dicendo. E ma il forgetto ci vuole sempre mia sistemato, ma ce la fai allora a cucinare? Perché chi mi segue? Guarda che a casa mia io arrivo a mezzogiorno, oppure anche se mangio alle 3 non lo fa nulla a me. Non c'è nessuno che mi dice oh, guarda che sei in ritardo per mangiare. Aspetta, la finanza è questa. Che faccio della finanza adesso? Latte dolce, ah no, qui da lui. No, quella è latte dolce, quella che c'è latte dolce. Se fatti della finanza siamo entrati. Ecco, ha pagato, perché lì c'è. Sì, c'è il ritrovo per i bambini, ma è un risoppolo. Risoppolo di zoppini che vanno a Langhiri. Qualche restata, Giuseppe? Una volta la polizia ci ha detto che c'è dei soldi, c'è una grossa risa, però non è andato prima che arriviamo noi, perché la tavola ci aveva tirato lo scaldabagno a torre. Ciao, ciao. mangiato adesso, gava. Ah, hai già mangiato? Io ancora no. E io mangiato. Addirittura. Tu che sei sempre informato, domani a che ora ti va a prendere la moto? Ah, boh, insomma che sia alle 2, mi sembra, non sono sicuro. Non lo so, ma lo guardo, voi lo guardo volentieri. No, è capo, guarda se riesci a vedere sul televisore a che ora è, che non me lo voglio perdere. Ma sport, è ancora un attimino che... cosa, poi te lo dico. Kappa. Ma stai lavorando, stavi, no? No, stasera no. Sono andato così un po' in giro con mio figlio, una passeggiatina dentro Sassari, e niente, e poi sono tornato a casa. Dove va tu, eh? Dove va tu, ci vuole. Oh, yeah. Così la giornata era così, no? No, ma siccome stasera volevo andare a pescare, volevo pigliare lei, se mi pigliare tu a Caverdere. E così che secondo che era il gran premio, ci vado domani mattina, ma giusto per fare due lanci, compro un euro di bigattini, giusto così, tanto per fare due lanci, no? Non voglio spendere i soldi. Anche per passare una mattina un po' diversa, tutto qua. Cavagava, gli andava là. E poi sei dovuto andare a pescare, ma non mi sento bene. No, mi intendo. E va, ci scendo però. Ci organizziamo. E niente. E poi si vedrà. Cavagava. Allora. Mi metto la casa, mi metto il pacchetto in forno, una cosa all'altra e ti va a campare. Poi mi guardo il mattino della moto e poi domani sera me la passo tipo pascià, sdraiato nel letto, tranquillo, pacifico, aspettando il lunedì per andare a lavorare. Già andava, no, io ci vado a sera, fammi due lanci, giusto per passare una serata diversa dalle altre, sto qua, non è che... Poi se non pesco come frega niente, io mi viaggio a messo il lame in kiwi, però volte faccio la pesca come fa mio fratello, con la costa chiusa, ma solo non la giubbazienza, la apro, ci metto 3-4 lami, giusto così Mario, giusto per... ti divirti, dai. E cappagatta. Io, più che per divertirmi, lo faccio anche per avere anche il suo cliente, dare qualche pesce. Ehi, vabbè. Se si attacca, beh, se no, non gli vuole una malattia, no? Cappa, io non manco. La roba è tanto, è sparito, Sì, sparato. Allora, sto parlando, è sparito. No, io ho questo pallone di anno, me l'ha sotto casa, ma me l'ha portato. E niente, tutto lì, davvero. Ma siccome stavamo parlando di roba di mangiare, ho detto portami un pezzo, la segniamo, anche per vedere se è come quella che piglio io da Cristian. Buona. Non lo so perché ancora non l'ho manco aperto, perché sono salito su, ho accompagnato gli anni a casa, poi sei entrato tu e niente. E mio figlio non c'è, quando viene mangiamo, ce la gustiamo un pezzettino, come ti passo. Lo so un po' che bella la pentola. Io l'ho mangiata, adesso mi ricordo, un paio d'anni fa, quella affumicata però, buona, ma buona veramente, proprio un bel panino mi sono fatto, ma buona veramente, poi non mi ricordo di quale parte era, comunque è roba sarda sempre. Capo, no, perché Cristian quando l'ha messo nel banco nelle cose dalla confezione, capito? Non sapevo, non la provenienza neanche il nome, adesso già mi l'ha detto, ma siccome non me lo sono scritto, me lo sono già allora, se ti farò rimangiare, stasera, ma non mi sto facendo venire. Caro Gianni, si lavora per la pancia e per la tutti i poteri. E niente, pure tutto il resto non è niente. Bisogna cercare di divertirsi. Questo passaggio che facciamo su questa nostra pianeta, cerchiamo di passare nel miglior modo possibile. Ho detto, non è fai TV guai o al televisore. No, no, veramente. prima di Sciulli. E ma ce ne sono. Ma guarda, sono tutti cordialmente, buona domenica, buona serata. Thank you. eccetera eccetera, c'era anche il peperone in mezzo, ti fa diarrea. No, diarrea non me ne fa, se quella era buona. Dove tocca a me allora? Io ero 1-1 comunque. Che mangiava tutto l'inverno, cioè tutta l'estate, così l'inverno era tranquilla. Cappagatta! La storia non diceva così, la cicca si divertiva, la formica invece lavorava e conservava per l'inverno. Cappagatta è positivo, perché la formica era più intelligente della cicca. Cappagatta! E me lui già mangiando? No, ma... E sabato, un po' di volte, c'è in fretta, mangiava pizza, fai così. Vabbè, volevamo comprarla di quelle... come si chiama, quelle della pizzeria sotto casa, poi ha detto noi già ne abbiamo un paio di quelle surgelate, le abbiamo prese. Ma a me quelle non è che mi piacciono molto. E neanche a me piacciono, guarda, la pasta non è cattiva, quelle imbuta neanche surgelate, dai, non sono surgelate, però il pomodoro fa schifo, infatti me le ho mangiate così, veloci veloci, non le ho neanche gustate. La settimana scorsa siamo andati a mangiarle buone veramente, in via Roma c'è una pizzaiola, una donna che fa le pizze, ti fa la margherita ad hoc con la mozzarella di bufala, i pomodori freschi e il basilico, ma è spettacolare, è buono, è enorme la pizza, ma è veramente buona. Sì, bravo, io vado a casa di Luca, andava a prendere lì. Quella casa in Canada, ma tu stai parlando pizzette da sport? Vabbè, ma molte volte non ti viene neanche nulla, domenica sabato scorso eravamo così, e io ci fermiamo a mangiarci una pizza, per non stare neanche a casa, eravamo la moto che non ci andavamo, perché prima tutte le settimane andavamo in pizzeria con gli amici eccetera eccetera, adesso siamo da un po' che non ci andavamo, e io andiamo a mangiarci una pizza. Piano piano già si rimetterà pure lui. Non cercare il nome di Dio in vano, Mario. Non l'ho più né visto né sentito, per esempio. Le 8.000 volte è entrato a pregare, non vale più a pregare a nessuno. Si vuole entrare, anziani, e se no, cosa vuoi che dica? Va bene, a pregare se vai in chiesa, la carina. Io non è che sto pregando a nessuno, io sto dicendo che una volta si faceva e sarebbe bello ritrovarci tutti quanti, o non lo dico tutti perché magari saremmo due sottomarzoni. Però di ritrovarci di tanto in tanto, di andare a mangiarci una pizza, prima ci trovavamo anche per fare una colazione. Già lo so, ma io purtroppo non sto uscendo di casa, si può dire. Vabbè, tu è perché hai avuto quel guaio lì con tua madre, le cose, il tuo padre non c'è più, e diverso, ma tutti quanti gli altri, che poi anche tu una clappa una volta alla settimana lo potresti pure fare, lascia in carico per dire a tuo fratello e dice guarda io per un paio d'ore esco con gli amici e vado a mangiarmi una pizza, per dire, non è che ci deve stare tutta la notte. Ma non te la fanno favore, no, non ha capito, non ti invasini, poi già lo sai Angelo, si gocca a ghizzo, bollo di nero di sacchizzo e non vivara, no, no, manca di nidi. E scappa, è anche sua madre lì, non è solo tua madre, no. L'unica che ha fatto te l'ha fatto un burro a Edio, anzi forse a Edio l'ha fatto un burro di un mezzo. E Mario, già lo posso fare, già, volendo già lo posso fare. Quando è dormito a dire, esce e basta, non veniva di là. Quando volete che vi viene il pallino in testa, fatemelo sapere, e non c'è problema. Sì, vabbè, ci organizziamo Mario, non sarà io sul problema, no? Io sto convincendo anche a Pompurio di fare una domenica, di fare una mangiata lì in campagna all'aria aperta. Tanto il gas c'è, la cucina c'è, la luce c'è, all'inizio fare un poco di ravioli, fare un po' di fuoco, un poco di bistecche, un po' di insalata e insomma che faccio a me? Ehi, già ho capito. E come facevamo una volta, no? Vabbè, io non sono mai venuto lì. Vabbè, tu no, ma che c'era, ci veniva Servizio, ci veniva Fabietto, ci è venuto una volta anche Porcellino. Ma forse era meglio di non mi avrebbe bene a me magari, capito? organizzo gli eventi di chi. Davvero, cioè se lo vogliamo fare per me Giulio, ti sto ascoltando. Ho capito cosa è successo. Una volta sono andato io, c'avevo un mio figlio piccolo, aveva 3 anni. E siamo andati tutti quanti a mangiarci la pizza, no? E la carina era talmente presa da questo colesterolo in verticale in Sicilia. Ho fatto il mio punteggio proprio per avere il diploma. capito, se c'è già quel diploma. Me la riconosco il diploma, ne ha. Ma quello è un binomio, sempre un ben, difendi, mamma mia. Oh, vabbè, lui c'ha il tempo per farlo, oppure diciamo il tipo di lavoro gli permette anche di collegarsi in orari strani lui. Adesso che fai turni, è vero. Quello giusto. Ora quello su una banda per lui, Gigi voleva fare una banda solo per fare questo conto, perché sennò doveva mandare, è diventato di mandare nei burletti, diventando un frutto. Là è difficile, eh. Allora la banda dove si lavora meglio, diciamo, che riesce a lavorare anche quando c'è maltempo, che riesce a pompare di più. Quando c'è maltempo, nelle bande basse, 40, 80. I 40 di giorno e gli 80 di notte, capito? Come se invece bel tempo i 10 si fanno sui 20 metri, capito? La sera sui 15 che si sentono i cani. Kappa. È bello, non l'ho mai sentito, però dovrebbe essere bello fare quel discorso. E infatti ho detto a Roberto, se lo potevi dire, e non c'era il numero di telefono, se no te l'avevamo detto, se te l'hai conto. E già ce ne sarà di tempo, già ci mettiamo d'accordo, quando c'è il bel tempo e ci organizziamo, lo vediamo un pochettino, eh. Esatto, domani mi finisce il contest, domani devo venire di mattina e di sera. No, non lo so, io domani mattina devo andare in giro con le bambine, glielo promesso, perché cazzo, sono tutto l'inverno impegnato per lo sport. Poi magari secondo momento devo dare uno squillo di telefono a Salvatore e poi ci mettiamo d'accordo. Ma Salvatore è da me domani. Se di mattina che dice il numero di cellulare, ce l'hai? Sì, di Salvatore ce l'ho, guardi, lo squillo, non garantisco niente, che dipende dalle bambine, le ho promesso che li porto a fare un giro a Portamona, al mare, perché domani dovrebbe essere una bella giornata. E il capo, vedi tu, così, domani vedo che la fine dici, in 20 metri, certo, c'è da guardare forte, perché domani è pieno, domani finisce, quindi se... domani mattina domani sera a lavorare fino alla sesta ora è una corsa. Perché secondo lui si deve dare il gol, il punteggio, il gol, il nominativo, il segnale, è venuto il gol, non vuole fare da tanti altri alla ronda, no? Capa, i segnali lì che quanto arrivano in Santiago normalmente, un segnale dall'America? Dipende in che banda lo condividi, la propagazione che c'è, capitola. Se no arrivano sempre tutti, ma gli si vanno in giro, ma ti vorrei dire, gli si vanno 3.000 là. Capa, ma a Santiago Rome ci arrivano questi? Ma ci arrivano sì. Vabbè che le americane sono sempre esagerate con le potenze e tirano fuori, ma detto Salvatore dice anche 8 kW, c'è un tipo con 8 kW esce, ma non ce ne hanno loro limitazioni di potenze? Loro no, invece qua massimo si uscire con 500 watt, capito? Loro non hanno limitazioni invece? Oh, la limitazione vanno, dici? Si tirano di minare, fare un armadio, fatto di gonfio. Poi non parliamo le antenne, le potenze delle antenne che saranno le 13 baggio della RAI. Infatti. Tutto motorizzato, si puntano l'antenna super direttive e vanno dove vogliono loro. Infatti, è logico. E arrivano, perché arrivano 15 metri quando c'è buona propagazione, dovrebbero arrivare forti. Capa. E voi come arrivate come segnale normalmente lì, in America? Non lo so, io non li ho mai collegati, chi mi sta collegando è lui adesso. Adesso quando... Poi mi ha collegato uno, ma non me lo ricordo, ma arrivava. Già ho segnato sul logo. Ma quando c'è propagazione, li vedo, ci sono 15 metri la sera, no? Dopo le 5 ci sono, vogliono rischiare. E sicuramente arrivano i due bombi. Gli apparati che usano loro sono come quelli che possiamo utilizzare noi o roba ancora più evoluta? Che usano il Kenwood, gli Aesu e l'ICOM oppure altre cose? Usano gli apparecchi per dei materiali che fanno essi come li usano noi, capito? No, dico, magari hanno marchi americani, non lo so, tipo Collins, cose così usano, o usano anche loro una roba giapponese. giapponese. E dipende da chi gli piacciono le valvole, da chi gli piacciono i transistor. È questione di piacere. A me per esempio piacciono più le valvole, per la ricezione soprattutto. Vabbè, la valvola è sempre la valvola, è una cosa anche bella a vedersi oltre che a sentirsi. Solo che quelli che voglio usarli con i guanti, capito? Quelli sono apparati che non ti scherzano, quelli. Devi stare attento, se no ogni tanto devi cambiare le valvole, devi saperli usare quegli apparecchi. E la fottitura delle valvole è solo quello, che si esauriscono col tempo e poi se le tieni troppo tempo ferme i trasformatori perdono, i condensatori perdono il liquido, eccetera, eccetera, per cui funziona uguale. Infatti, devi usare con i guanti quegli apparecchi, bisogna saperli usare. Però per la ricezione, come quelli a valvole, no? Se tu visto la differenza, la gente che ce li aveva e quindi so come funziona. K, riprendi tu Mario. E K, come tutte le cose, bisogna sottolineare determinati apparati, non è da tutti, bisogna averci un po' di testa, un po' di cose, non è come il transistor che sì, è più facile il transistor perché dura anche di più. Ok, il transistor io ho visto che il mio è stato abbandonato per quasi 7 anni, se no anche qualcuno in più. E ho visto che una trentina di GRC nei contatti del coso e funzionano benissimo, mentre che il valvolare lasciandolo tanto tempo così non so se sarebbe stata la stessa cosa, perché sono apparecchi che dovrebbero essere attesi in continuazione e niente, e farli funzionare. A parte che prima di usarlo, uno di quegli apparecchi, cioè, lo devi accendere, lo devi lasciare scaldare per almeno mezz'ora, ma è lì, prima di poterlo usare, capito? Noi come tirando, con il transistor, tac, lo accende e funziona. Beh, come tutte le cose, è andata lì. Anche la macchina, la mattina, quando si è freddo, non è che ti metti in moto e parti. La lasci scaldare un attimino e poi parti. Certo, le carte magari vengono qua perché la temperatura è già calda e via, capito? Però in inverno che c'è freddo, siccome lo scambio di temperatura è molto elevato, allora la fai scaldare così e per quegli apparecchi lì, ma la lasciate riscaldare un po' e poi ci parli e via. Sono apparati del tutto diversi, oggi sono la linea Greci che era la fine del mondo, ce l'aveva un amico e guarda, in ricezione non mi nega, capisco, perché tu puoi avere tutti gli apparecchi che vuoi, ma come ricezione, come quelli a valvole, non mi nega, poi sono stretti, hanno tutti i siti, mamma mia, dicevi con la stazione pulita e basta. Capito, quelli per i miei sono essenziali, perché non senti casotto, perché no, se ci siamo sotto capo senti ti dà fastidio, perché ti dà fastidio? Appena sono affossato, mi si mettono vicini di fingere, si rompono le scatole. Ma cosa, beh, anche lì ci sono quelli che magari non si sentono, ok, sono nel canale a fianco e via, perché quegli apparati lì sono con la banda molto stretta e difficilmente danno fastidio, però a volte succede come hai detto tu, da fastidio, però non ci puoi fare nulla. No, perché sono in determinate potenze, anche se sono distanti, si rompono le scatole. Ma guarda che è difficile romperti le scatole con uno di quelle apparecchie, eppure vuol dire che conoscendo con una potenza elevata e quindi giustamente ti disturbano. Ehi, cappa. contano perché magari hanno la direttiva e si stanno ricevendo quel di dietro, di fianco, capito? E quindi manco ti ricevono a te. E lui si disturba perché magari sta usando anche potenze grosse, ma la direttiva puntata da un'altra parte, giustamente a te non ti sente. Papà, c'è qualcuno che vuole entrare perché ha fischiato. Però non ho capito chi sia. Chi è avanti? Chi è avanti? Tu vedi Luca? No, ragazzi. Ero io. Ah, e tu un altro Luca era. Cappagatto, quando le chiamano sparisce sempre. Io ho il telefono, sono letto. Cappagatto. Cappagatto, queste donne ti stanno consumando anche il telefono, Luca. Con Falcone era il telefono, io chiamo sempre lui. Tagliarina a baionetta. se ricordi. Io metto il foglio sotto, poi abbassi la lama, zette, e te li dai. Ah, di cui anche per troccatrice. Esatto. Ma sono elettrica, non sono normale, è un gamba di rollo, però. Guarda che ho capito, che il banco metti lì tre e te le fa tutti per tutti. Esatto. Amore mio, con la casa mia. Oh Mario, andiamo a fare un simile. Sì, lui è. In cosa entrava? Lui dopo entrava. E da questo lo facciamo una richiesta. Caruccio, Luca, fammi sentire i peli. Ma da voi mi ciuffavo, mi fate incazzare. Io si può leggere qualcosa, ci sta la padrona scatola. Ma entravo, diciamo. Solo che c'era freddo. Vabbè, ancora nel periodo, vabbè. periodo. Via. KK. Già andava, eh? Dunque già arriva. E poi ti lamenti, che caldo, che caldo. Ho detto, se c'è qualche veganista, Emilio gli sta dicendo 3-1. Va bene. Vabbè, tutto a posto la barca, sì. Sì, sì, l'ho messa in moto. Ero già un paio di settimane che non ci scendevo. L'ho fatta girare 10 minuti, un quarto d'ora al motore per caricare la batteria. Ma non male, già è buona la batteria. È una batteria di un camion, una voglia che tira. Un poco di fumo quasi quando è freddo il motore, perché c'è tutta la cosa, l'olio accumulato dentro i cilindri. Ma il tappo già viene messo, sì. Il tappo? Sì, fa affondare. No, la barca è coperta, c'ha il telone, è chiusa, non entra di acqua. Eccetera eccetera, la scheda è valida fino al 2007 eccetera eccetera. Ma ha detto pure qualcosa, la chiamata era 2 euro e 16 centesimi, boh. No, il credito, 16 centesimi. Il credito, allora ho capito male io. Gappa di rosma. Luca, guarda cosa sta facendo la Juve, se ti viene bene. Rosso, ma aspetta, vediamo un po'. Anche se del video, andateci in balla. Lo metto a 221, se va a 300. Adesso va, sono qua. Adesso no. Aspetta, vabbè. K di Rosso, metto. Ma non è una viene bruciato la pentella. Che ne avvieni tu? Non lo so. No, sei tu? Per carità. Mario, è messo pescando, sta. Allora, la guardia sei capo. Ma capito bella bestia, ti fici che perché non mi fai sentire i piedi? È finito. A te come sei andato per la ginco? Uia, cuori mio. Non è come il Fabrizio, non è così. sì. È un bel sito quello. Un bel sito. Sto guardando, non è il 7000, cioè di la mia bestia. Oh, signori, io mi lascio là, ma vado soltanto a mettermi dentro la culla, che sono un po' stanchino. Ci sentiamo tutte le prossime, fate un bel corso e niente. E ci rivediamo tutte le prossime, va. Ciao, ciao, buonanotte. Mario. Ciao Mario, buonanotte. Ci sentiamo domani. Avanti, Luca. Cazzo, ma è poco la vado dentro la culla. Ciao Mario, ciao, buonanotte alle prossime, avanti roba. Ciao Mario, buonanotte alle prossime, una cosa, manda avanti di un'ora all'orologio, se no poi magari ti devi abbandonare un gran premio e non te lo vedi, perché confonde l'orario. Questa notte cambia. Un'ora avanti manda. Scappa, grazie per l'informazione, ciao ciao, buon proseguo. E prendi Luca. Anche su Goku tirare un gol, bravissimo. Faccio, guardiamo. Miau, miau, miau. A me mi piace più la Formula 1, però anche il MotoGP è bello lo stesso. Sì, preferisco più il MotoGP che la Formula 1. Non mi piace la Formula 1. A me mi piace quando vince la Ferrari. Se per dire la Ferrari sono fuori dalle prime posizioni, spengono una mezzo più. C'è gente che mette in testa per la Ferrari. Ma è si chiama vero, tipo uno che conosco io. Guai se ne perde una gara, guai. Ma guarda, io ti posso dire Luca, del calcio mi piace, vero, però non sono tifoso sfegatato di nessuno, ma della Ferrari troppo, cioè, mi dispiace troppo se la Ferrari perde. Sì, a me non mi attira, no, invece è morto, sì. E guarda, me volenti, tipo volenti lo vado a fare. La settima poi inizia a rimontare, se passa a primo e va, cazzo vinci, mi manca lo zuddo fuori il gabbo. Fuori in testa, ma non volentieri mai che settimo, anche decimo, e poi inizia a rimontare, passa a primo, non ce n'è. No, lo è in classifica, Valentino, prima è Capirossi con la Ducati, speriamo che vinca anche la Ducati, ma io sono contento se vince anche Capirossi. Se vince Valentino è meglio ancora. Vabbè, Valentino è sempre Valentino, però io ti fotto la Ducati, l'unica cosa di Valentino Rossi è che con la Yamaha, se avessi avuto la Ducati guai. Se io non c'è Berga è morto, Luca. Che è fino a male a me, prima andiamo a Rosa. Ma io sempre lo so per due ruti. A me, uno zip 500. Non ti rincura? Dove l'hai visto? Oh, hai visto che balla? Se l'ho lontana a 3 milioni. Ho visto quello in bianco, quello che sta cantando. E se non è brutto, lo dico. Se l'hai visto con quel po' di bomba a bocca. E si baccareggia. Anoxa. Tutti portano sempre non è tornato, e fu vedersi i ruti. se ne fumava ho letto l'altra. Lui non diceva, lì ci vuole dei bacchetti, minimo. Ma se ne ha fatto? Ma lui credo. Ma non l'ho più visto, però. Si chiamano ogni tanto. E se pensivi, anda che ti dorra. Ogni tanto apprezzo la mattina, tipo le 5, le 6 mattine, e inizia a passeggiare. Io ne ho visto un altro, insomma, quello lì, c'ha una pancia che è enorme, allucinante, mai visto l'altro? No. Ma quello con gli occhiali? Sì, è alto me, insomma, ogni pancia. Sì, ci facciamo cazzerà, ci facciamo già la mazza. Senza la mattina, io vado lì all'angolo, fare il fornitore, ci ricupera guai, fate un po' di là da Sassari. Chiaramente voi Luca quando era venuto Fiorello a Sassari. Ah, che c'era. Eh sì, Fetta d'Italia. Papa, che verrà che dalla Becisvendola. La Becisvendola. E tu? Questa nuova registrazione mi ha fatto solo fare le video, era convinta da 70 anni, era andata anche a Coso, all'altro programma, alla corrida che avevano fatto come Maria Vigiolina, lo stesso. Aveva fatto la domanda a quella di Corrado, però non l'avevano mai presa. Ma chi sei convinta da 70 anni a Verum? Il Vecchi, sulla campana. Sì, avete cantato la canzone, la vostra sorella, quella Giovanni, quando la fare di Avide, ce l'ha mandata a Fiorello Fiorello che ha detto, basta, ma io da tutti i lenti, vorrei arrivare mai sopra il palco, ha detto, vada via, tu non è come la vecchia, e mi Nicola, calze al resto, una donna che avrà 55 anni, Maria, una ragazzina lì. A te ci vendola. Che sicuramente già la conosce, adesso non so dove ce l'abbia la cosa, ma un po' di voi che ha fatto in televisione, Antenna 1, a TeleG, e tutti questi canali a Pasqua, a Sardegna 1, quando ci sono quei programmi di cose lui si presenta sempre. C'è anche il figlio che canta, lo stesso un altro, mamma mia. Non so presente, non so, poi l'avrò vista, non mi ricordo. Avanti. Luca, come fai tu? Non sono presente, roba. Ma non ce l'ha andato tu in Piazza d'Italia quando c'era Fiorello? Roba ce l'ha andato, ma se l'ha fatto subito, erano parienti. Quanta gente, ma un po' di ragazzi sono accacciate. Cappa, e quando era Meganghello non ti sei andato a vedere Vodafone Life quando 3 anni fa mi bagno? No. Se morale era vista, mamma mia. 3 anni fa in Piazza d'Italia, è una cosa spettacolare. Meganghello già la conosci? Sì. Guarda fa frustare la Vodafone. Sì, la devi vedere, è una cosa spettacolare. Ma proprio da vicino a mio l'ho vista, ero con mia moglie e la bambina. Che si canteravo. Poi un bel figliata poi. Ma non è dire carina, è proprio una bellissima ragazza, proprio bella da vedere, non è di che tutte pompate, è un bel tranquilla, non è pompata come si fa, non è vanitosa, dai. Vabbè. No, vabbè, televisione di questo, non assai, non assai. Una bella donna, perché non è una ragazza, una bella donna. Oh, ce ne erano tantissime di belle ragazze il giorno, però lei era diversa dalle altre, già. Troppo donna. No, ma tipo, lui andava a vedere un'altra per il sud, eppure penso di... non c'era... ma... ma non mi vedi. Vabbè, è lì il coso delle canzoni sassaliti, dai, salito. No, sulla moto non so. Pure quando molte volte c'è qualcuno che, tipo la volta che c'era Gianni Morante, ci sono andato. Cos'è quello? Forse la copertina, lì ti devi fare. Da qua. Quindi c'erano dei bravi cantanti, c'è gente che sa suonare veramente. No, ma gamba, come da vizio. Ci ha messo la... sono ben dato, sta suonando la pianola. Un pezzo di partita del Milan, ha fatto fatto un dito cazzuso, non è manco io so come sarà fatto, è incluso dei quadri. Ma io che sta vincendo? Non lo so, infatti volevo vedere. Il Milan sta vincendo 3-1, stava perdendo 1-0, sei citato, al secondo tempo ne ha fatto 3. Che ne pensano della partita Roma-Juve o Juve-Roma che sia? Bravo il sonato. È ben gasso. Infatti è confetto da un fanno. È stato praticamente lo sta accompagnando l'orchestra. Quando eravamo fidanzati sì, ma va no, da quando c'erano le bambine niente. fare le mani. No, è già finito. La macchinetta per fare il figlio è già schiuso il rubinetto. Schiuso tutto? Tutto dal caldo? No. Ti ridai, cerchiamo al massimo, vai da benzina, ne bastano due. Ricordi che si rigioca. Infatti l'hai visto, così tuo fratello se che mi lava mi la tre massima. Al contrario disse, me ne riduce le femminucce. E va. Chiamano bene le femminucce, va. La una è poca, e due li sono truffi. Sì, è vero. È vero. Ma vabbè, vedi che vai. Poi può arrivare da uno fa all'altro. E chi lo sa? Sopra i giornalisti, radio televisivi, risultati, lutta. Adesso. Io non sappiamo quanto malato ti ha fatto la Juve. Ma è dato il palito, ma diarrea sì. Hazard. No. Charlie One. Poi vabbè, sì, io non riuscivo a rispondere. Però non mi ricordavo che era il figlio di Ravato, che era adesso? Claudio, mi chiedeva a Sanino, perché non sapeva, a questo punto non ci conosco una vista, ma sapevo era lui. E poi, niente, di che parla a voi? Poi trova Graziano, Fugliadoro, poi trova. E un bel, poi c'era questo Ciro 2, Cassa di Vecchio, poi trova Fulvio Cavazzati, Gigi. Non è che me ne ricordi chi c'è, cioè. Luca, quella che era entrata tempo fa, bambolina e col Cristian, lì se dovevano entrare, si fermassi tutto, non so più entrarci. Non sono, beh. Sono usati. Adesso vediamo, quest'anno, secondo me. Non so, vediamo. Vediamo, vediamo. Secondo me, meglio di capo tutto. Con qualcuno conosciuto in frequenza. Da che cosa? Pezzo di gallo a sé. Una cosa sana se ci sono decine e decine di antenne a Sassari e ci lì in loco. Yeah. si va a Luca nei maesi, ha già tutti i dubbi della segnaletica. Sì, allora sono uguale, è preciso. Quindi non è la strada male. No, non è solo la segnaletica, io sono in due campi sportivi da sempre. Tutte le due segnaletiche sono la cosa strana, non solo la striscia, non la gira di cartelli. Le nuove? No, non è la segnaletica. Io sono per i due campi da sempre, per gli usi di cartelli. Mentre per il calcetto sono più veloci. Sì, fare le giri. Oddio, non è se buchi di zirido. Sì, ma credo che deve tenere sulla rete anche, la rete, la persona quando si fa conto. D'accordo, è vero. Oh, un casino, cazzo, un casino, ho fatto un casino, poi non c'è una buca di parte in parte. C'eravamo 20 punte, il muro in fallo non c'è una zana. Thank you. anni fa, c'era gente che si era sua, lui abita lì, non se non aveva pista. E c'era gente lì, ragazzi, hanno fatto casino, lì ce ne hanno rotto le piante, su curosa, sono spariti. E c'eravamo io, Paolo Dubbioni, stavo parlando, e Mario Cimarina, lì alla cabina, parlando così, no, deve essere almeno. E lui mi diceva che avevo un colpo da bicho, e mi come a curare? E ci sono proprio davanti alla piazzetta lì vicino alla cabina. Ah, in chi mi siete? Non li bidavo così che si è affuntato. Cazzo, cominciamo a camellare, poi il po' si è incazzato. Siamo scappati, Poi lui se n'è andato, ha attaccato la sua, poi l'ha chiamato i carabinieri. Beh, non ne va su, va bene, fuggi di carico, ma come non si è affidato? Right. visto in macchina. Si è fermato da un poco fa la freccia. Ma che in giro non lo pensavo mai che facesse una cosa del genere. Ah, chi visita, esita, esita. E ho fuggito. Thank you. io sono a follina così perché non ho più, non va che sono così, io che si fa anche per risoccarsi, capito? Non è nome perché sono per risoccarsi. Yeah. non posso fare niente, non posso vedere niente. Ma la stava mettendo a ieri, la stava mettendo, che era già il discorso. Ma chi vuole dire? E allora, se glielo faccio una mossa paurosa. Non lo so, perché io l'ho mandato, lui era stesso. Lui, non mi ricordo. Thank you. sono io che faccio quello che si rimane fino a 20 assenti ma qui non vedo che si è seduto la vita a massa non è venuto di già. Thank you.